lo stai vendendo troppo, e Michele va a consigliarmi e dice ma quanto può valere, idem quell'altro napoletano, quello Claudio. Io sono abbastanza informato perché sono appassionato da sempre di queste cose, più o meno qualche valutazione la so fare, ma molte volte andavo a vedere un coso e dico guarda che costa più quasi quanto nuovo, oppure tiravo delle cose e dico guarda che questo vale molto di più, allora correggeva i prezzi, perché devi sapere cosa costa il prezzo, tu solo vendi un pezzo usato, non lo devi vedere più del 50% normalmente, cioè di meno sì, di meno no, deve essere in perfette condizioni, poi lo devi far provare, quello Adamo, quello che c'ha il negozio, non mi ricordo come si chiama, comunque via Sotto Pintore, quello lì è molto ordinato, preparato, prende cose nuove, non vende mondezza, cioè non è di quello che prende in blocco le cose come molte volte fanno molti di questi, e prendono mondezza anche di cose che non servono a niente, la mettono in vendita a 2 euro, a 1 euro eccetera eccetera, quello là ti seleziona la roba, è più, un po' più preparato come cosa. Poi c'è il napoletano che quello prende a stocco, per dire, ti prende 10 lavatrici, 10 frigoriferi, barattoli di vernice ce ne sono a quintali, poi ti prende oggettistica, cose del genere, lì molte volte puoi trovare l'affare, perché anche lui molte volte non si intende, non si rende conto, io quando ho preso i 1200 me l'ha chiesto a me quanto si potevano pagare eccetera, altre attrezzature di alta fedeltà, poi trovi quelli che si mettono a sparare il prezzo convinti di aver la cosa, come quella Vespa che stai dicendo tu e la Lambretta, quando gli ho detto guarda che sei fuori mercato, non è perfetto, restaurata, è fatta anche male, non corrispondono certi pezzi al periodo eccetera, e alla fine poi gli ha fatto portare via il tipo, poi c'aveva uno zigolo, quello era carino, discreto, dai, niente di eccezionale, però era carino, gli ho detto il prezzo è abbastanza ragionevole, ma molte volte c'era una lambretta a 50 e lui 50 la lambretta, gli ho detto ma stai scherzando a questo prezzo, fuori, assolutamente fuori mercato. E infatti avevo chiesto a Giulio, poi in quel periodo avevo chiesto a Giulio Munito, giù così e così, da quel Gianfranco c'è, cioè questa vespetta così, no, dice lascia prendere, al massimo può valere siano 800 euro, ma aveva detto Giulio, infatti ho lasciato perdere, però infatti avevo chiesto a Giulio proprio perché ma forse ha ragione lui, aspetta che chiedo e così vedo un po' se posso comprarla, invece poi Giulio mi aveva no, lascia perdere, dai, 800 euro anche di meno te ne trovo una io, se proprio ti interessa, altro che quella, e con un motore che sappiamo che è in ordine, ma la carrozzeria è una carrozzeria buona, non dico nuova, ma buona, al limite te la puoi veneggiare tu, già lo sai fare, lui già lo sa che io potevo fare queste cose qua, vai Gianni. Già sono belle, la Vespa a me piace la Special e poi mi piace la Primavera, la Vespa 125 Primavera, erano le due moto che mi piacevano di più. E anch'io, la Special ce l'ho avuta io, la Special grigia era la mia, era bella, era veramente una bella moto, funzionava anche una meraviglia. E poi anche lo Zigolo, Robert, tu mi sembra che hai citato lo Zigolo, anche lo Zigolo l'ho avuto, da Muzzi, anche quello, mi ricordo, quando andavo a Sentino anche, c'era un periodo che andavo a Sentino a lavorare, quando lavoravo sotto ditta, che avevo lo Zigolo, e poi avevo anche la Lambretta 150, facevo un giorno uno, un giorno l'altro, e andavo a Sentino tutti i giorni, perché ho lavorato per almeno 3 mesi, di seguito quando stavo facendo Capo Falcone, quel locale lì, ne ho fatto la metà io, ne ho fatto di quelle, e poi anche a Roccaruia lo stesso, anche quello lo stesso. Va bene, avanti, riprendi Claudio. Sì, aspetta un attimo, di bianco se voleva entrare qualcuno. No, io ho avuto sì la Special e poi il 125 Primavera, poi il 125 Primavera e avevo comprato il Vespone bianco. Anzi era un po' beige, diciamo, molto bello, e poi sono andato su quelle un po' più grandi. Va bene, e guarda, voce, non ho una cosa, buono, me la metto più, va bene, prendi, fai girare. Sì, adesso c'è da dire, Giulio, tornando al discorso delle vespe e dei vesponi, non si possono comprare, cioè hanno avuto una rivalutazione impressionante, cioè una vespa la più scarcina che puoi trovare da mettere a posto non la paghi meno di 1000 euro, i vespuni stiamo parlando dai 2000 euro in su, poi se sono restaurati 3000, 3500, cose, hanno avuto una rivalutazione impressionante, la R vale più della Special, la N ancora di più, eccetera, eccetera, non parliamo della Primavera, 125 Primavera, a riguardo dello Zigolo io ne ho uno perfettamente restaurato, il 110, e altri tre, c'ho due 110 e un 98, il più bello è quello 98, adesso quando c'ho tempo lo devo sistemare, mi ha dato un amico e ogni tanto mi dice te a lui me l'ha regalato tre, di questi tre ne puoi fare altri quattro perché non so quanti motori mi ha dato, eccetera eccetera, lui non se ne faceva niente, ha svoltato, poi ho fatto prendere Micla, forse te l'ho fatto vedere a Marcello a fianco a me, gli ho fatto prendere un bravo, perfettamente restaurato, completo di tutto, anche le sacche, proprio già revisionato con la targa eccetera eccetera, a 200 euro gli ho fatto, a me non mi serviva, c'era Fabrizio, poi gli ho detto se ha mangiato le mani, perché Fabrizio ha restaurato un ciao bellissimo come quello che ho fatto io, lui l'ha fatto celestino mio, è verde, un prima serie special mio, e ne ho diverse di molto tempo, ne ho almeno altre 5-6 da finire, le faccio così per divertimento. Ok, avanti a te Giulio. Ok, sì, beh, vabbè, in effetti è così, no, beh, erano sicuramente, oggi valgo di più, io mi ricordo fin quando Giulio era in attività, tante volte sono andato anche insieme a lui lì da Ettore Tola, no? Nonostante che ormai la Vespa non era più in produzione, però qualcuno ancora c'era e ce n'erano diverse da comprare a seconda mano e Ettore Tola se le faceva pagare molto care, molto care, ma te capita, gira costa quanto costava nuovo e questa se lo sta vendendo così, ma per curiosità io chiedevo cosa costavano, tanto andavo insieme a Giulio, lui andava a comprare il pesce, mi diceva vai giù, ci facciamo una passeggiata, devo andare, dai Ettore Tola, io da Ettore Tola, mollavo tutto e andavo insieme a lui, tanto per staccare un attimo, perché sembravamo degli schiavi lavorando, sia io che lui, vabbè, ogni tanto ci prendevamo una piccola pausa così, e ti dirò, da Ettore Tola, oggi come oggi ci sono, ma ci sono anche nuove, solo che lo stile di cui delle vespe di oggi a me non piace, a me mi piaceva lo stile delle vespe di prima o robe. Hanno fatto anche il vespone con i freni a disco ultimamente? Sì, infatti oggi ci sono state tante modifiche, ci sono i freni a disco, tutto quello che vuoi Gianni, però secondo me hanno avuto un'impennata nei prezzi assurda, dai, troppo costosi, no, non è possibile, dai, non è assolutamente possibile così. Vai Claudio. No, ma a me non piace, già, a me piace quella originale, quella tamburo, insomma il Vespone, ecco, prima serie che è uscita, che se vai a comprarlo ci vogliono sempre 2000 euro se lo trovi usato, però l'ho trovato da uno di Benetutti, nuovo, era sempre in garage, voleva 2500 euro, non gliel'ho comprato, se no me l'avrei comprato alla grande, perché è sempre stata una bella moto, oppure trovare un bel 125 Primavera, lo stesso l'avrei comprato, ma non ce n'è qua, non ce n'è, sì, l'ho visto, l'ho anche provato, Robè, siamo trovati lì da Via Maria a prendere il caffè e ho fatto un giro nella piazzetta, bello, senza casco, molto bello quello di quel bravo vecchio Marcello, capito? Fatto, ma lo dai, no, mi se vuoi la moto vieni in officina e ti prendi quella grande, sì, a giovane dice mi dammi, mamma così, se mia moto, vai. KK, avanti Roberto. Allora, quella moto che si è preso, quella Yamaha, pesa 198 kg e ha più di 200 cavalli, tutta in carbonio, è una cosa da paura, super alleggerita, scarichi in titanio, non so, tutte le cose che c'ha quella moto lì, e poi l'ha pagata, o 23 o 33 mila euro, una cifra fuori mercato. Sì, ma non è che io la voglio perché non la so portare. Ah, ma ce l'ho detto, guarda la voi, vieni l'officina e te la prendi. Ma io non la prendo perché quella non è una moto, quella è una tomba, capito? È una tomba, non è una cosa da giocare. Lì puoi andare solo in pista, secondo me, con quella moto. ma poi lui è mancato, tu devi vedere quando esce, siccome è scarico libero, non so, tu sei sentito in moto, quando parte da Usilo, Danilo abita a Montebianchino, sente il rumore della moto sua, sarà a 2 chilometri di distanza, un rumore assordante, se ne accorgerà quando sale da Usilo, che sarà nel pezzo di Usilo, in linea aria saranno 5 chilometri, lui sente questo rumore assurdo, ma anche la notte dice assurdo. Ma perché tu una volta non ci vieni a Marcello? Ma tutte le volte che io vado, anche la volta che ho fatto la macchina a gommarla, ho detto così, in ritardo di stamattina, perché lo sento anche io, beh, io sono vicino a tuo fratello, quindi lo sento anche io, assolutamente sì, ma poi ti ripeto, lui c'ha molto, sia il piede pesante, perché non è la prima volta che lo sento fischiare anche con la macchina, e sia la mano pesante, e glielo ho già detto una volta, infatti come sai l'ha messa da parte perché lì si stava sollevando dritta, non so se te l'ha raccontato, a me me l'ha raccontato, è riuscito a domarla perché altrimenti si sarebbe ammazzato, forse il suo peso, forse la bravura, forse l'attenzione, non lo so, ma le è andata bene, capito? Avanti già. Io voglio parlare di moto più piccole, il 90SS, ve lo ricordate? Il 90SS della Vespa. Io ci avevo il 90SS, me l'aveva fatta signor Mario Mariani, a me me l'aveva fatta. Io avevo la mia, era 90SS, con la cuffia leggermente più alta e andava molto bene con la moto. Posso parlare io? Era col manubrietto, no? Io non mi sa che esce dalla fabbrica quella, vai Roberto. La 90SS, vi posso raccontare tutto di quella moto lì, perché è una moto che non la paghi meno di 25-30 mila euro, un tipo, parliamo, restaurate. Il 90% delle 90SS sono tutte taroccate, tutte modificate e adattate. La 90SS è quella che c'ha quella specie di serbatoietto tra la sella e il manubrio, lo scudo, diciamo, e serve per essere in motitura e appoggiarvi la testa per coso. Costava all'epoca un'esorbità, perché camminava, costava più del 125 primavera, infatti ne hanno venduto, cosa ti posso dire, adesso non mi ricordo se 1300 ne hanno fatto in tutto il mondo, è quello lì, poi tutte le altre sono tutte rafforzamenti. Allora c'è un amico mio che ce l'ha questa moto, a parte, vabbè, 3 persone ce l'hanno, 2 sono per il mercato americano, una per il mercato americano che diciamo è un adattamento, anche se diciamo originale, le altre sono tutte taroccate, quelle ne abbiamo fatte anche noi 2, però sono dei tarocchi, fatte perfettamente uguali. Ce l'ha una persona che conosco io, non faccio il nome, cliente nostro, amico. Questo qui, lui è andato a Imola, conosce il mercatino, il più grosso d'Italia, vengono da tutta Europa a prendere i pizzi, e stava cercando il volano, perché a lui mancava il volano, una cifra spaventosa costava il volano. Quando il tipo della moto, quel tipo l'ha vista, gli ha detto, questa moto ti gli ha fatto, gli ha detto, guarda, qua c'hai 15.000 euro, ti do 15.000 euro adesso, e mi dai la moto così, senza volano, non gliel'ha voluto dare. Poi quando gliel'ha rimessa a posto, l'ha tutta riverniciata, era già buona, gliel'ha offerto 25.000 euro, 25.000 euro e non l'ha data. So, c'hanno un prezzo assurdo, tu prendi una Vespa del 46, la prima serie, quella vale come prezzo, anche se più rara, eccetera eccetera, la paghi di meno di una 90SS, perché è una cosa, è una moda, è come quando ti compri il Rolex Daytona, che magari costa nuovo 20.000 euro, trovi quello del 1960, lo paghi 100.000 euro, e così è diventata una moda di questa moto qua, talmente ricercata, ne hanno fatto talmente tante di coppie, che se 90% sono tutte coppie, io originale ne ho visto solo una, ce n'erano 5 sequestrate, le ho viste io, è andata a ritirare le marce e 2 sono sparite, non si sa che fine hanno fatto queste 5. No, io ho capito male Gianni, ho detto la mia come motore, la Vespa 50, me l'aveva fatta Mario Mariani, ok, e l'aveva fatta diventare 90SS come motore, però non è che avevo la 90SS, la conosco. C'ho fotografie di mio padre con la 90SS, col Triumph 250, col 500, col Guzzi, col Califone. Mio padre era concessionario Pirelli per tutta la Sardegna, quindi tutte le moto del produttore si andavano lì a gommare, quindi c'è un sacco di fotografie di mio padre con questo tipo di moto, capito? Perciò la conosco molto bene, c'era la Lambretta, c'ho foto con la Lambretta, c'ho foto con la Vespa, quella proprio la più costosa, quella col manubrio in tubo, con due sedili piccoli, c'ho anche quella foto lì, quindi già la conosco, la 96, se no la mia era una Vespa 50, solo c'era Mario Mariani, mi aveva fatto diventare il motore 96, se lo chiamava lui, per quello ho detto a Gianni, io ci avevo 96 la Vespa, Vai Giulio. Ok, ma no, io come moto potente proprio ne ho avuto solo una, e l'altra diciamo si poteva considerare potente, che era GS200, 200 di cilindrata, anche quella camminava forte, però la moto più potente che ho avuto è la Aermach 250, quella sì. Io la verità ho sempre avuto paura della moto, non sono stato mai un tipo appassionato delle grandi velocità nella maniera più assoluta, per cui non ne ho avuto tante, però cioè moto ne ho avuto diverse, ho avuto l'Alpino anche, ho avuto l'Altimela, ho avuto tre tipi di Vespa, la 50, la Specia e la GS200, cioè la Vespa 200, più ho avuto la GS200 della Vespa, anche quella era ancora migliore, però la pericolosa, quella dello spunto, se non stavi attento te ne buttava, perché subito si impennava, la Vespa è maledetta nello spunto, non so se ancora oggi è così, ma prima era, dovevi avere la mano per poter fare una partenza veloce con la Vespa, ma era bene. No, la Vespa è sempre tenere, poi sempre al mercato. La 90 SS c'aveva il telaio più piccolo, c'aveva il telaio simile a quello della Vespa prima serie N, la 50N, molto più corto, più stretto, lo scudo eccetera eccetera. E poi c'è un segno identificativo che lo sanno pochissimi, infatti me ne accorgo io quando le vedo, la prima cosa che guardo c'è un punto strategico e te ne accorgi subito che lo sanno ben pochi quel discorso lì. E non per dirmi di vantare, però le sappiamo riconoscere, perché io ne ho visto ma proprio uguali, fatte maniacali, con tutti i particolari, anche con l'adesivo, usare miscela. Poi l'ho controllata, fammi vedere una cosa, questo è un tarocco, ah, è vero, ho detto questo è un tarocco, e ne sono usciti dei bisogni, come si dice, gli uccellini da mezzo. E poi una volta stessa costava un'esorbità, c'era un motore molto potente rispetto al 125, era più leggera, molto più brillante, era un altro tipo di moto, completamente diversa, il cambio diverso, il volano, il coso, l'albero motore, tutta un'altra moto, per quello che vale un sacco di soldi, perché è rara trovarla, eccetera eccetera. Tu cosa ci avevi dello zigolo, 110 o 98 giù? Ma se mi ricordo, dite la verità, non mi ricordo se era, ma forse era 98, perché io ripeto non sono mai stato amante delle moto potenti, non mi interessava più di tanto, quello tutto carinato avevo, quello con la carenatura, 98 mi sembra che era, sì, me la correvo quando andavo a Sentino con un bianchino che c'era, che lavorava anche lui in quel locale che stavamo preparando, al ritorno ce la correvamo sempre, però la mia andava sempre un pochino di più, non di molto, ma un pochino di più, sempre seduti in due persone, io e due persone lui. Una volta hanno fatto i furbi, hanno fatto finta che erano caduti, si sono fermati e erano dietro di me, no, io l'ho visto da specchietta, l'ho visto, si è coricata per terra, mi va male quando ho fatto, ma sono andato e basta, non mi sono fermato, perché ridendo io e Salvatore Luglio, che era con me nella stessa moto, mi ha detto ma accidenti, siamo caduti, non ti sei, ma cosa ti sei fermato, perché tu mi stupi che ti sei fermato, ti sei coricato per terra per farmi capire che eri caduto, e invece era così, era, ha fatto finta di che era caduto, ha fatto, e invece si era coricato apposta proprio per dimostrare che lui era caduto, invece l'abbiamo avuto una giusta io con la moto, con la roba. Ma se forse hai detto qualcosa a Gianni, cos'hai detto Gianni? Ho detto meno male che Giulio non era avanti alla velocità, però se la curia la moto. Beh, ma era una moto che non era molto veloce, cosa vuoi sia, 98, cosa te credi che faceva? Se faceva moto faceva 90 all'ora, meno di più o Gianni. Certo, la Aermach sì, la Aermach faceva, che è quella che ho avuto, 250 di cilindrata, mi sembra che sviluppava roba di 170-180 km l'ora. Io al massimo l'avevo provato una volta lì davanti alla cementeria sono arrivato a 160, una cosa del genere, ma pure ho avuto paura, boh, a Bascia non se ne parla più, poi me ne sono disfatto, perché ripeto, io non sono mai stato amante della velocità, nel vero senso della parola, Gianni. Vabbè, che tu sappia, 96 aveva il manubrio, vero? Aveva il manubrio più piccolo. Sì, è tutta diversa, è tutta, non c'è niente della Vespa normale, il parafango diverso, il manubrio, il volano, c'è cioè 50 km, poi la moto, la sella molto più stretta, un colore marroncino, è un'altra moto, c'ha sul serbatoio, cioè dallo scudo a dove attacca la sella, l'attacco della sella, c'è cioè una specie di contenitore, sembra un portaoggetti, invece serviva per appoggiare la testa, quando ti metti invece un'imbottitura, cercate la 90SS su internet, è tutta un'altra moto, proprio il motore è spinto, super spinto vuol dire 90SS perché è una moto spinta, camminava più del 125 ma molto di più. Ma io la conosco, ce l'avevo manco io 90SS, sai cosa ti sto dicendo, mi ricordo che aveva il manubrietto, ma non so se l'aveva messo il manubrietto oppure se era dalla casa, questo non me lo ricordo, però aveva 90SS, bello, e camminava a buio questa moto, sì è vero, era molto veloce col motore, era molto brillante. Ma la Vespa 50 Special a me piace molto, con le ruote del primavera, marmita super sprint, bellissima. Attenzione che esiste anche la Vespa 90, non c'ha niente a che vedere con la Vespa 96, era una 50 Special con motore 90 ed era immatricolata come motociclo, c'aveva la targa, c'aveva un amico mio, una Vespa 90, nata 90, si chiamava 90, era la versione potenziata della 50, però anche quella non c'ha niente a che vedere con la 96, i motori pur avendo la stessa cilindrata sono totalmente diversi. Guarda, la mia fatta da Mariani, Vespa 50, elaborata a 90 con la marmitta, quella Pinasco, ok, la marmitta SS Pinasco, bianca, bellissima, poi la mia era pesce, la moto, la Vespa, col fanale grande dietro, il 125 primavera, il coso quadrato, molto molto bella, c'era un adesivo Lacoste nel fianco, che ne avevo furato a Piu. Sono andato a prendere un maglione, c'era questo adesivo, un radio ci vedo ammacciato, bellissimo. La mia al 125 primavera, non riuscivo a passarla, ma le stava attaccato, le stava un bel attaccato al 125 primavera, era una bestia. Infatti il signor Mario me lo diceva sempre, non la dirà, mica si facciano i rifasci, mica la bui fondi, non la dirà, capito, perché era miscela. Perciò andavano molto bene quelle moto. Assolutamente, no, niente da dire. E poi c'era la moda che tutte le moto erano fatte, c'era la moda della Vespa azzurra, la marmita della Pinasco bianca, e poi si mettevano il bordino dove c'è lo sportellino, la guarnizioncina in gomma nera per staccare. Tutta, c'era la moda, tutto usassero con queste moto, se le facevano fare azzurre con la marmita della Pinasco, perché era il massimo, faceva un bel rumore con la marmitta. E la 96, tra l'altro, aveva la marmitta cromata, simile a quella della Pinasco, molto simile però alla cromata, era diversa anche la marmitta rispetto alla Vespa normale che aveva quella specie di padellina sotto. No, io ci avevo la SS, però era bianca, l'avevo fatta arrivare da fuori, me l'avevo fatta arrivare il signor Mario Mariani da fuori, ed era come la SS cromata, uguale a quella, però era bianca, uguale, stesso disegno di quella, ne aveva di serbatoietto sotto, lì c'era la mia zia, che fea che era. Quella lì io c'avevo la marmitta SS, però anziché essere cromata era bianca, e la mia era beige, la moto, beige, e ti dico che era bellissima, sella lunga, fanale del 125 primavera, era molto molto bella, però poi vabbè, poi diventi più grandi, allora vai, ma avevo comprato il Vespone, sempre appunto da Ettore era compare mio padre, quindi mi aveva fatto anche un bellissimo sconto, eccetera eccetera. Stiamo raccontando, ragazzi, i tempi belli, me che siamo ultra sessantenni, aiuto! Se venivi a Sacro Cuore quando io avevo 18, 19 anni, 17, li mettevano, c'era quel parcheggio di fronte alla chiesa, si mettevano lì, mettevano lo straccio in terra e via a fare meccanici, a truccare moto, a vedere chi, e poi se la correvano al chilometro, libretto, e chi vinceva si prendeva la moto, ma certi non se la sentivano di corresela, però se le truccavano lì, proprio a Sacro Cuore prendevano, cambiavano la campana, questo, quell'altro, marmitta, questo, ci sto dicendo che facevano tutto all'aperto, lì dove c'è il parcheggio. A chilometro Robidelogo ha perso un pieno di... benzina, com'è, capito? Un piede lì è andata lei che l'ha già fatto fare Rubieno alla Smart, allora c'era la Smart, se no se glielo facevo fare all'Audi gliela pigliava buona, capito? Insistendo, poi anche Franco gli aveva detto, Franco Carifo, mi metti con i voti a motorizzare, mi metti, mamma mia, era più veloce di Sassari, tasco adesso mai stufato, io dopo ancora mi pare non c'era manco la rotonda, siamo partiti lì dalla come si chiama, dalla palestra, ha detto io ricordati che, perché gli ho detto scrivi un pieno, anzi mi ha detto fai un buono, il pieno di una macchina mi devi fare, poi lo vedo io in quale macchina fare, gli avevo fatto fare nella Smart, gli ho cotto una giuscia T-Maxi, la mia, tu immagini come ha accelerato, la mia ha fatto il fosso in terra, è uscito il fumo dalla ruota, ho tabaglietto, che cos'è un raggio, diciamo, ne ho preso almeno 80-100 metri, vai e cocca, vai. Ma la tua era truccata, no? E quella sua era truccata, lui c'era variatore, centralina e marmitta, io c'avevo variatore, centralina e marmitta, solo che non sapeva che centralina c'avevo io, hai capito? La mia aveva quasi il doppio dei cavalli rispetto alla sua, e Franco gliel'aveva detto, la mia non c'era, non molto che mi passava. Tu immaginati il 550, il modello nuovo, che era appena uscito del T-Maxi, nuovo, modello 550, a me mi faceva un baffo mi faceva. Se uno camminava il buio, quello che c'avevo io, che quello che c'aveva il satellite natalino, quello lì camminava un quello lì era 250, quanto era disegnato, non me lo ricordo se era 500. Avevo quello che aveva le masse automatiche, sequenziali, che camminava un bel quello lì, faceva 200 quella moto lì. 200? Oi, era un 650 quello, sto dicendo la mia, a 200 all'ora ne ha perso il casco il fratello di Luca, sto dicendo lì si è attaccato il casco a 200 all'ora, in due, stai attento, in due, non a ragione, in due, in due, ma tu era un 400, un Burgman 400 già, non l'avevi mai toccato niente, la sua velocità era quella, 160, 170, ma tu immaginati un 400 come avevo io, che arrivava a 200 all'ora, mica era una cosa pazzesca, in due, abbiamo passato a Franco con la moto nuova, in due, te la giuro, mi divido a vedere. Ci credo, però io non l'avevo mai toccata né centralina né niente, era originale, l'ho rivenduta che non aveva la bisica, era perfetta perché le facevo tutti italiani, tutto quanto, l'ho venduta perché e poi alla fine dolori, questo e quell'altro, non avevo più voglia, poi da quando ho avuto l'incidente un amico mio che ci è rimasto, mi ha dato da pensare, ho detto basta. E vabbè, lascio, l'incidente posso succedere anche a piedi, e io la mia, perché è vecchia, la mia nuova, l'hanno distrutta e quando l'ho vista mi sono messo a piangere, perché io l'ho data al fratello di Robby, che se l'aveva comprata lui, capito? Poi c'era stufato e l'ha venduta a Tore, quello della gastronomia via Pascoli, e l'uviglio l'ha distrutta, tu immaginate che gliela facevo mettere in garage, la metteva da me, non lasciare fuori, tolgo le chiavi, metteva da me in garage, la metteva lì, poi non ne ha più messo, lasciava sempre fuori, alle intemperie, in pizzeria, lì, capito, è caduto due o tre volte, l'ha distrutta, ma era nuova, l'avevo comprata da Donatello, via 4 novembre, quella moto era uno spettacolo, e ho fatto da lì, direttamente da Omar, De Ciro, ho detto Omar, mettimi tutto quello che ci vuole, ma mettimi tutto quello che ci vuole, variatore, centralina, marmitta, fai tutto quello che vuoi, tutto, ma era una bestia, ragazzi, una bestia, figurati che Franco voleva fare il cambio, tiro la mia, mi dai quella, ah tenato, ma la mia nuova, no, me ne affutti nulla se nuova nuova, intanto non mi piace esteticamente, mi piace più la mia, ma non mi interessa proprio. Vai Giulio. Ok, qua. Quella volta che aveva stai parlando di Robby di nuovo, era la tua prima, qua. E si conferma, gliel'ho data io. Era la mia, io me la ricordo bene. Ti ricordi già come l'ha fatta? Era uno spettacolo Giulio, uno spettacolo. Ci ho speso una barca di soldi in quella moto. Manigliette, maniglie, gomme, gommini, tappetini fatti in alluminio, comprati su internet, di tutto e di più, ma era, mi soddisfava, io quando uscivo con quella moto ero intanto lo sicuro, perché c'era una tenuta di strada allucinante. Ah, poi ha voluto fare la prova in curva, dove lo compari, Antonello, come si chiama, che era via di tutte e due, tutta quella con, con gli adesivi dorati, ti ricordi già, era il compare, ecco, adesso avete tutto fatto, ma cosa pensate, io sia motociclista, che sia, comunque vi curo a tutte e due, a chi siete, due babasoni, l'ho detto, perché quando guidavo io la moto, voi non eravate neanche nati, cosa ci risente, allora abbiamo fatto il pezzo da prima di arrivare a San Camillo, quando sono arrivato a San Camillo, allora erano ancora le prime due curve, ho detto lasciatemi perdere, ma io vi sto cercando, non me ne affrutti nulla di fare i gari, sono bripparato, sono bripparato a chi sono curifatti me, ma non ho voglia io di fare proprio nessuno, l'ho detto, in ogni caso hai perso anche qua, hai visto che la porto meglio di te la moto, in curva ti caghi sotto, io invece in curva non mi cago sotto. Cappa, dai, io adesso, scusate, ma devo salutare, non ero reso conto dell'ora, dai, che devo accompagnare, torna, va tanto al lavoro. Dai, ci sentiamo, mi ha fatto piacere questo, ci sentiamo domani magari. Ciao già, ciao, le prossime, vai Robè. Ciao Gianni, ci sentiamo, vai Giulio. Ok, ciao Gianni, ci sentiamo, ciao, grazie per la chiacchierata, a domani se coincide. Sì, qua, la moto bisogna anche saperla pilotare, perché se uno non la sa guidare bene, perché la moto, si sa, in mano ad una persona ha una resa, in mano ad un'altra che è più capace ne ha un'altra. No, io la verità, devo essere sincero, non ho mai avuto nemmeno il coraggio di lanciarmi troppo con le moto, eccetera, per cui ero una frana. Io andavo dritto al buco, nelle curve ci andavo piano, perciò non le facevo, anche perché una volta sto andando da quella ruina, e con una lambretta, no? Avevo una lambretta, e un mio amico Francesco, che abita in Via Federetta, anche lui aveva la lambretta, lui aveva la lambretta che era più veloce della mia, ed era avanti a me, almeno che so io 200 metri in una strada dritta, lunghissima, caspita, faccio la curva, lui ha fatto la curva, la faccio io dopo, ma non è finito Francesco, che c'era un altro rettilineo lunghissimo, e cosa è successo? Lui era caduto, c'era uscito sulla sinistra, era caduto nella cunetta, e la moto l'ha sbalzato dentro una campagna che c'era dopo, subito dopo la cunetta, l'ha fatto saltare in alto, meno male che lì non si è fatto male, si aveva fasciato la moto, questo sì, che si è fatto, ma dove è finito Francesco? E lui era caduto nella curva lì, e io non me ne ero accorto, mi giro e te lo vedo alzandosi e custodendosi nei pantaloni. Allora, a me le moto mi piacciono da morire, belle, però mi sono fatto male due volte e ho detto basta, c'ho ancora le cicatrici, ho detto finito, ma le guardo, ma neanche a fare sedermi con uno, è capitato a Genova qualche anno fa, questo amico carissimo, a Genova in macchina non si può andare, lui c'ha il T-Max, e c'aveva, adesso non c'era più, una persona grande, di una certa età, molto prudente, io ero cagato sotto, ho detto no, non mi siedo, no, dobbiamo andare per forza, perché è troppo lontano. Alla fine ero cagato sotto e lui camminava do piano, ho terrore delle moto, mi sono fatto male, me le guardo, mi faccio il girettino, il pezzettino così davanti a officina, niente di più, se no devi andare in pista, io non è tanto per me, per gli altri. No, vabbè, la moto bisogna andare lì, io non ne ho mai approfittato e non ho mai dubitato che la moto bisogna andare lì, però se la sai portare e sei sicuro non devi avere paura, però sempre dandole del lei, con molta molta attenzione, perché a volte devi stare attento agli altri che ti possono creare problemi, tu magari ti andando piano, uno rispetta lo stop, come è già capitato, e te ne messa, però bisogna stare molto molto attenti, la moto è moto, la macchina è macchina, non venuta da là. Vai Giulio. Già lo credo, la moto è molto pericolosa, io mi ricordo tornando da Sentino, l'ultimo giorno che avevamo finito il lavoro lì a Roccaruia, no a Capofalcone, no a Roccaruia, a Capofalcone, che c'era il lavoro, no, non era finito il lavoro, sì abbiamo lavorato anche il giorno, ma lì c'era, il giorno c'era anche il pranzo, la festa, infatti c'era Moratti, il padrone dell'Inter, quello di allora, Angelo Moratti, e dunque avevano fatto un grande pranzo, eravamo tutti invitati, tutti quelli che hanno lavorato lì erano invitati a questo pranzo, okay. E io tornando da Sentino, in una curva ampia, bella, grande, cosa vuoi ti dica? Da stupidi, cadere lì era stupido veramente, c'era nella sabbietta per terra, come ho curvato e non mi è uscita la ruota da sotto, la ruota di dietro che è scivolato e ne sono caduto, sono rimasto attaccato alla moto, sono rimasto e mi ha trascinato per terra in piena estate, col caldo, una cosa, guarda, con l'asfalto rovente, proprio una cosa, e mi sono tutto l'avambraccio, tutto graffiato, tutta la coscia sinistra sino all'altezza del ginocchio, tutto graffiato, addirittura mi si era attaccato anche il catrame, perché avevo rotto anche i pantaloni e tutto, quei pantaloni aperti dalla cintola sino giù all'orlo, proprio scucito completamente, come ho scucciato per terra. Mi sono fermato lì a Porto San Nicola, c'era una donna anziana seduta fuori, c'era lì, detto, signora, non è che mi può prestare un'acqua a cucirmi i pantaloni che sono caduto dalla moto? E il figlio mio, come ti sei fatto? Per carità, dice, aspetta che te lo cucisco io. E così da sopra me l'ha cucito lì il pantalone per entrare a Sassari, perché ero tutto quanto messo male. Sono arrivato a casa, mi sono curato a forza di cose, e da allora non ho usato, per tutta l'estate non ho usato più le magliette a maniche corte, che io ho sempre usato e che ancora oggi uso a maniche corte in piena estate. Usavo le magliette a maniche lunghe, perché? Perché non c'era mamma la sera, sono andato a casa, mi sono curato, mi sono fasciato il braccio, mi sono fasciato tutto quanto con la penicillina eccetera, e poi non ho fatto mai sapere a mamma che ho caduto con la moto e me l'ho fatto male. Gliel'avevo detto dopo qualche anno, gliel'avevo detto, capito? Lo so, purtroppo la moto sei su due ruote, può essere prudente quanto vuoi, però devi stare attento anche agli altri. Poi quando ero ragazzino io macchine ce ne erano 10, adesso ce ne sono 100, il rapporto 1 a 10 è, per cui è molto più rischioso, lasciamo perdere. Ok, vi piace? Guarda, non so quante volte mi sta venendo a riprendere, esci che mi prendo un Liberty, a me piace molto il Liberty che ha le ruote grandi eccetera eccetera, se devi andare a fare qualche commissione in banca, cose così, però mi calmo perché mi piace, tra l'altro ce li ho anche volendo, ne prendo quante voglio, sono un amico di Omar, a parte tante occasioni che mi capitano in officina eccetera, pigliatela quando vuoi, pagamela quando vuoi, sono usata, te la tieni, fai, ma siamo da bambini, ci conosciamo, come lo conosce lo stesso Claudio, ma sinceramente non mi interessa, c'ho il ciao, posso prendere il ciao, c'ho la moto elettrica, una motoretta elettrica eccetera, ma preferisco lasciar perdere. Beh, dite la mia con le ruote grandi, quanto è bella. Ma io la voglio più snella, la voglio tipo, c'è presente il Liberty che ha le ruote tipo la bicicletta grande, un po' più larghe, e guidi col manubrio senza, per dire, se devi strampare, se stai scivolando salti e non rimani bloccato dentro. Beh, la mia è tipo Liberty così, con le ruote grandi e scooter, va bene, per fare commissioni è più che sufficiente, basta, con le moto grosse no, non me ne putti più nulla, ma assolutamente, giusto per fare gli spostamenti come hai detto tu, capito, giusto per fare gli spostamenti. Ascolta Giulio, anche a noi eri tu al Roccarruia e Capofalcone, perché io lì ho fatto il manutentore sia a Capofalcone che, vabbè, dipendevo da Roccarruia, però facevo la manutenzione lì a Capofalcone. Beh, l'anno non lo ricordo, ma diciamo che sono sicuramente verso gli anni 1958, 57, 58, una cosa così, o forse anche 56, una cosa così, proprio quando hanno costruito Roccarruia, poi successivamente hanno fatto, prima hanno fatto il ristorante su in alto, poi hanno fatto, quando c'era l'albergo anche giù, Roccarruia e Capofalcone, per cui io cosa avevo fatto? Il primo di tutti, quello in alto chi era? Capofalcone, no, Roccarruia quello lì era Roccarruia, l'altro è Capofalcone, c'era anche Pulli, il pittore di Sassa, che aveva fatto lui delle cose, aveva fatto delle statue in rame, dei lavori meravigliosi, veramente. Tu pensa che il padrone era allora Moratti, il padrone dell'Inter, era il padrone di quello locale lì, e aveva fatto il pranzo per tutti quelli che ci avevano lavorato lì, ma la sera mai l'avesse fatto, eh. Sono caduto tornando la sera verso le 4, cosa così, la sabbia c'era, si vede qualche camion, avevo perso un po' di sabbia e sono caduto, ma io mi cutato da lì, sono stato tutta l'estate grazie male con queste ferite che avevo sia nel braccio che nella cuscia, perché mi usciva sempre acqua, come quando uno si brucia o quando uno è bruciato, così ero io praticamente, ero in carne viva e mi usciva sempre acqua sia dall'avambraccio che dalla cuscia, per dirti, no, pacare dai, mai me ne ricordi? No, io ho fatto 75 e 76 a Capo Falcone e su in alto, Roccaruia e giù, ok? E anche io ero dipendente del gruppo Moratti. Lì a Capo Falcone c'aveva le ville, tre c'era Corso Sormani e Bellucci. Capito? Sono rimasti un bel po' di tempo, poi non lo so se l'hanno venduta, se ce l'hanno ancora, non lo so. Comunque c'erano loro lì, io li ho anche conosciuti perché hanno fatto un triangolare di calcio tra il Roccaruia e i dipendenti di Capo Falcone, praticamente quelli della banca, quelli del ristorante, quelli della discoteca, quelli della pizzeria, quelli tutti i negozi che c'erano su a Capo Falcone, capito? Dipendenti di giù con quelli di su. E hanno fatto un triangolare, proprio una squadra era di Corso, l'altra di Sormani, l'altra di Bellucci, e mi pare che aveva vinto la squadra di Bellucci, gappa, in quegli anni lì, e io lo stesso c'avevo la moto e viaggiavo, mi pare che avevo il Vespone e viaggiavo da Porto Torres a Stentino in quell'anno lì, perché c'avevo il patentino, vabbè non venivo lì allora, comunque c'avevo la moto. Avanti, Roberto, io un altro passaggio, poi rimango in quel Rix che inizio ad andare a prepararmi la cena. Poi c'è la partita. Appunto, siccome mia moglie ha detto la prepari tu la cena, perfetto, però sicuramente c'è la partita e non ci sono dubbi, ma c'è anche il Grande Fratello, quindi devo mediare io, capito? E ti guardi il Grande Fratello? Non è fratello, se mi voglio guardare io qua in stanza c'ho quella piccola, quindi si vede, ma preferisco guardarmela nello schermo grande, capito, nel salone, quindi devo mediare una cosa giù di me, o lo Grande Fratello o la partita, decidi tu. Vecchio. Allora, è così, comanda nell'inferno, io già voi ti dico. Le donne, va bene, dai. Buonasera Giulio, ciao Roberto, avanti Roberto. E ciao Franco, ben sentito. Vai Giulio. Ok, ciao Franco, ben arrivato. D'altronde, tu fai il fido tonto, prendi gli scambi il televisore, ti metti quello grande nella parte dove sei tu e lo cambi, e poi vedrai che per oggi già si accontentano. No, io di quei problemi non ne ho, una giuzinco delle visioni piazzate qua, per cui tutti sono a schermo abbastanza grande, vabbè, quello della sala è quello più grande di tutti, lì infatti le partite le guardo lì, anzi diciamo che quello lì è quello che guardo io la notte in pratica, dai, perché loro se ne vanno nella loro camera tranquillamente, mia moglie si accende e poi dai da bulu Grande Fratello, poi cosa c'è di speciale su questo Grande Fratello, non l'ho mai compreso. E altrettanto mia figlia, anche lei è della stessa idea, io non lo voglio proprio vedere Maria De Filippi, per carità, è tantomeno Grande Fratello, no, assolutamente. Avanti Franco. Grande Fratello, io, scusando la frase, ma lo chiamo il Grande Casino. E per quello io lo, l'ho battezzato tutto Mediaset, grande casino, perché sempre tu nei canali Mediaset, da Romanzano alla Sera, incominciando con quelle trasmissioni del cavolo che fanno tipo i dibattiti eccetera, sono sempre a secchirsi, sempre a far rendersi, tutto il santo giorno, capita? Poi anche la notte ci vuole quello, paccali dai, ui, già mi basta che lo guardo forzatamente all'ora del pranzo, perché mia moglie si accende la televisione a quell'ora, e dunque io sono lì, subito dopo pranzato, in tavernetta stesso, mi siedo nella poltrona, però a me mi fa svenire il sonno quelle trasmissioni, per cui non mi interessano, infatti le critico sempre. Vabbè, avanti Robe. No, io mai in vita mia di questi programmi qua, Amici, Grande Fratello, Isola dei Famosi, Temptation Island, mai visto, ma neanche, appena giro il canale c'è quello, cambio di mani anche a vederle. Io assolutamente sono contrario a tutte queste cose. Adesso mi cambiando discorso, canale 5, il coso, Studio Aperto, no, canale 5, come si chiama, Italia 1, Studio Aperto, l'altro di Rete 4, gli altri tre giornali non ci saranno più, li hanno tutti, perché calo di audience. Televisione private, Sassaresi, Italia, come si chiama, TeleG, antenna, ex antenna 1, diciamo, canale 12, hanno chiuso, con oggi chiudono i battenti e funzionano solo su internet, perché i costi sono troppo alti, costa 70.000 euro per partecipare al digitale terrestre, una cifra esagerata per una televisione che non ce l'avrà forse neanche rifatturato, una cifra del genere. In Sardegna ne hanno chiuso 5 di televisioni, con oggi, col giorno 15, in Italia non so quante ne hanno chiuso, e ti riempiono quel canale di quelle televendite cagate di cose che mettono, io non capisco perché lo permettono. Vabbè, ma lo sai che oggi non riuscivo a vedere Videolina, cioè non c'era Videolina oggi, ma hanno tolto anche Videolina? No, assolutamente no, anzi Videolina ha migliorato, perché ha acquistato dei canali, perché Videolina adesso vuole potenziarsi, darti vedere Videolina Sport, vedere Videolina News, eccetera eccetera, ne ha preso qualcuno in più di canale, si è comprato Sardegna 1. Il discorso che a Cagliari c'è stata quell'alluvione, per cui qualche ponte probabilmente è partito, come quando era successo a Badia Urbana per l'incendio, probabilmente c'è qualche salto di qualche ponte, ma Videolina è un network molto grosso, per cui hanno soldi, per cui lo rimettono a posto subito. Controlla se c'è da fare la risintonizzazione. Oggi io, tra parentesi, non ne guardo mai private, guardo sulle canali nazionali, non sappiamo mai così piani questi TeleG eccetera. Capitava così girando, facendo la ricerca dei canali. Sì, ma stavo dicendo, hanno tolto Studio Aperto, mamma mia! Studio Aperto è quello di Rete 4, come si chiama? Studio Aperto e l'altro è Rete 4. Non mi ricordo Rete 4 cos'è, che programma c'era. Ma Studio Aperto, ma quello della Toffanini? Il canale del telegiornale, e fanno TG5, come si chiama, quello TG5, TG.com, solo quello lì, e tolgono quei due telegiornali che non c'era più tanto. Oh signori, io vi devo lasciare, male se ci siete dopo, vado a mangiare adesso, dai. Ciao a tutti, buon proseguo, se ci siete, vabbè ci siete dopo, c'è la partita, non credo di esserci, dai. Ci sentiamo domani eventualmente. Ciao Giulio, ciao Franco, ciao Claudio e eventuali amici qua sul 10. Ciao Robe, alle prossime, dai, ci aggiorniamo, tanto può passare. Avanti Giulio. Ok, ciao Robe, ciao, ci sentiamo, dai. Buona cena e grazie per la chiacchierata. Sì, infatti in questo momento canale 12 stanno facendo correre sullo schermo della pubblicità e basta, ma non è trasmissione, evidentemente la stanno facendo per tenere la frequenza, evidentemente, perché è una bucaria, vabbè, comunque purtroppo non ce la fanno loro. Allora l'avevo sentito Sandra Sanna che aveva detto, non stiamo fallendo, non abbiamo fallito, però siamo costretti a passare sul web, dice, per continuare le nostre trasmissioni, perché canale 12 chiudeva, vabbè, pazienza, dai. Ti prendi Franco da Sorso. Via. Ciao Roberto, comunque dai, ben tutto, ci sentiamo. Però ci sono ancora quel canale che ha detto Roberto. No, canale 12 non sta trasmettendo programmi. Adesso se tu l'accendi, io l'ho acceso un momento fa per vedere se effettivamente era già sparito o meno, ma è come se fosse fallito, perché ci sono solamente della pubblicità, cioè così, ma niente di particolare, anzi non c'è, è una porcheria nel vero senso del parole, cioè non c'è trasmissione, almeno per il momento, adesso aspetta un po', vediamo se finisce la pubblicità e se poi riprendono le trasmissioni, ma non credo però che riprendano. Vai Claudio. Tu fra Roggiami, il grande fratello del casino, cosa hai detto? Io lo chiamo un reality di falliti, hai capito? Lì dentro c'è gente fallita, che non lavora più e quindi la prendono per guadagnare soldi puliti senza far niente. Ma tu mi devi dire a me, che questo discorso ce l'avevo già l'altro giorno, cosa ci fa una Katia Ricciarelli che Pippo Baudo le passa 12.000 euro al mese? Cosa ci fai lì dentro? Cosa ci fa? È una di quelle che, a parte quello che gli passa al marito, è una di quelle che magari ha fallito anche cantando, ha fallito. Non ha fatto la carriera, ha fatto Pavarotti, ha fatto altro. E adesso per farsi vedere, come tutti gli attori che sono andati lì, tutti attori falliti. Senza andare lontano, tipo Alvaro Vitale, quello lì è fallito, perché ha fatto, faceva solo quei film di cavolo e basta, fate falliti in tutto, Ghisho. Come lui ce ne sono altri. E per farsi vedere di nuovo, per lanciarsi, può barca e pigliarsi burri di là. Una barca di soldi mi prendono fra, una barca di soldi prendonomi, Katia Ricciarelli è lì per fare audience, per fare spettacolo e basta, perché non fa niente, nulla. Chissà tu mago di galline, cosa ci fa lì dentro? Cosa ci fa l'ex Miss Italia lì dentro? Che sei la moglie del più grande calciatore al mondo, come Amoruso, cosa vi fa in Kiwi Trento? Cosa vi fa di chi si principesse? Chi si sono tre mattoni, no tre principesse? Cioè veramente, reality dei falliti, è una cosa vergognosa. Allora, se Mediaset vuole fare un reality del genere, la deve smettere di chiamare Grande Fratello VIP. I VIP sono VIP e li lasci a vippare da un'altra parte. Fai un Grande Fratello di gente comune che vuole iniziare una carriera, che si vuol far conoscere, ok, come facevano anni e anni fa il Grande Fratello normale, di gente comune, magari va molto ma molto meglio che andare a guardare questi 16 imbecilli che a me mi fanno solo incazzare. Sì, c'hai ragione. Allora, il Grande Fratello era l'unico Grande Fratello che c'era come si deve, era il primo che avevo fatto. Dopo ve ne è stato un altro. Poi hanno fasciato tutto. Avanti giù. Sì, ma è anche vergognoso. Poi hai visto come si accusano da soli così? Visto adesso Katia Ricciarelli, una cantante così, che prende quello che prende intanto da Pippo Baudo, l'ha dichiarato lei stessa, non è che lo sta inventando la gente, che ha avuto rapporti con un sacco di gente, incominciando ad esempio dal cantante lirico spagnolo, addirittura anche con quello che fa la magia, che anche lui è lì, lui a quello addirittura l'ha detto, dice abbiamo avuto l'avventura di una notte, ha detto, non lo devi dire, beh, ormai l'ha detto, no? Come si chiama? Lucas Casella, ecco, io nemmeno me ne ricordo i nomi di questa gente perché non li guardo mai, per dirti, hanno avuto un sacco di cose, e quello ha detto, dice, io ho avuto l'avventura di una notte quando ero sposata con Pippo Baudo, questa quella cantante lì deficiente, e ne ha avuto poco di amanti, no, non è una cosa nada vergognosa, ma non sono lì tutti quanti queste della televisione, queste donne, guarda, non ci puoi stare in televisione se uno non arriva a compromessi, Claudio, mettetelo bene in mente questo, che perlomeno per quanto riguarda le donne, se non arrivano a compromessi non ci possono stare in televisione, perché non le accetterebbero assolutamente. Vai Claudio. Ma io sono d'accordissimo con te, ma infatti io chiamo i reality dei falliti, una Carmen Russo, ma Goja vivrà in Kiwi Trento, vai, statene con la tua famiglia, tutta gente che ha bambini, che ha figli a casa, che ti guardano, fare tante zoccole, guarda una cosa, a me non piace, piace a mia moglie, capito, perché lo segue, da mangiare la sera e un chitarra di chi mi incazzo, li blocco, un canale li blocco, capito, veramente una cosa vergognosa, hai detto bene Fra, il primo grande fratello, il secondo grande fratello, anche il terzo grande fratello, dove c'era gente comune, dove sono nati veramente dei grandissimi attori, capito, dei grandissimi attori, come prendi Luca Argentero, prendi il povero Tarricone, poverino che è morto, prendi Gurumara Caruta, era diventato anche attore, bravissimo, come tanti altri che hanno fatto grande fratello, sono diventati attori, quella che fa Uno Mattina, Daniela, come si chiama? Daniela? No, non me ne ammetto, quella bionda che fa Una Mattina, quella ha fatto Grande Fratello, ne sono uscite tante persone che erano comuni, sono diventati famosi e sono attori, giornalisti, bravissima gente, questi non sono riusciti a andare nel mondo dello spettacolo e hanno una Grande Fratello, ma guadagnare Dinà, Katia Ricciarelli, non è minimo una da 25.000 euro alla settimana. Guarda un po' se ha bisogno di andare in vivi. Adesso hai visto che si stanno tutti lamentando, ci stanno questi attori, cantanti che non ce la fanno a fine mese, lì, là, e quando dipende di 10 milioni, 20 milioni in un pranzo, non vai dare, perché non tenere le luci di là, avanti giù. Ma purtroppo questa gente è viziosa, fra, spende, espande, lungo e largo, e poi si lamenta, ma è una cosa veramente vergognosa, guarda. E poi va la televisione a lamentarsi, dice, mi danno poco di pensione, e ti fai una bomba di bagno, ti dovresti anche vergognare a dire solamente che prendi la pensione con tutto quello che hai guadagnato nella tua vita, che poi hai sprecato, perché hanno sprecato questa gente che vuole sempre apparire continuamente, guadagna un mucchio di soldi e poi li spende così e si distruggono da soli. Loro si costruiscono, o meglio, gli altri li costruiscono perché, ripeto, perché vengono costruiti sempre dietro compenso di natura. Non ci sono dubbi questo, guarda. Per cui, e poi loro stessi si distruggono, quando incominciano ad essere di una certa età, poi si distruggono da soli perché non hanno più soldi. Perché? Perché hanno sprecato un sacco di soldi che hanno guadagnato prima, che sarebbero potuti vivere dalla babbo. Invece purtroppo è così, che cosa vuoi va? Avanti Claudio. Anche come ti ha detto Franco, c'erano i magnati di là, in bagasciumini e in ristoranti e in luoghi dove si pagava una barca di quattrini, capito? Perché ci sono giocatori, prendi un Bobo Vieri si è ritirato che era giovane, poteva ancora giocare a pallone, e ancora oggi uno dei più ricchi ex calciatori, a chi le dinassi da Rimusi, hai capito? Se li ha conservati, li ha investiti e se li ha conservati, non li ha buttati via. Sì, e beh certo, a Moroso i soldi ce li ha, perché ce li ha di sicuro, e non capisco come mai abbia mandato la moglie a fare questa specie di reality, se così lo vogliamo chiamare. Quello lì è un troiaio e basta, quella trasmissione. Dove fa? Capo, perché devono fare così, cara? Uno che guadagna un casino di soldi, tipo i cacciatori, tipo questi cantanti, attori, che guadagnano una cifra, che devono pensare anche domani, non è che pensare solo a oggi e domani mi insemmo. Non funziona così, non funziona. Perché domani arriva facendo così, domani si è morto di fame. Arrivi ad Achiri, oppure vai alla Caritas. Ma infatti è così. La realtà è quella, capito? È che hanno speculato denaro a destra e a sinistra, perché sai, i calciatori di allora erano i divi di Hollywood, così chiamati. E oggi vi dicevo che frase ne ravvammi, capito? Perché? Perché non ce ne hanno conservato. Tu guarda il nostro carissimo Sardo, Gianfranco Zola, c'ha 5 ristoranti a Londra, hai capito? 5 ristoranti, ma di pregio, perché lo so, perché lì c'è gente sarda che lavora, e io conosco e me l'hanno detto, 5 ristoranti di lusso, soldi investiti, a Oliena, non so cosa tutto ha fatto, hai capito? Va un palazzo usurio dove ci ha messo i genitori, i fratelli, le sorelle, c'è una persona che ha guadagnato un pacco di soldi, perché ha guadagnato un pacco di soldi, e li ha investiti, ed è giovane Gianfranco, perché è giovane, capito? Ma ci sono altri giocatori, sono in maniera legittima, e oggi vanno a fare gli opinionisti, vanno a fare, si li vede ogni tanto in televisione a fare che cosa? Si vendere un pupazzo, capito? Sì, un pupazzo, non puoi fare altro, tutto qua. Va bene, dai, io rimango in quell'X che mi ha chiamato mia moglie a preparare la cena. Ciao Franco, ciao Giulio, un abbraccio a tutti e due e a tutti quelli che sono in ascolto. Vai giù. Ok, ciao Claudio, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo domani, dai. Sì, fra un po', stanotte non mi metto nemmeno ad ascoltare, ieri notte sì, c'era Antonello e Carlo che stavano modulando fino a una certa ora, ma stanotte c'è la partita e dunque non accendo sicuramente il baracchino. Dopo la partita me ne vado a letto e basta. Ok, ciao Claudio, di nuovo, ci sentiamo. Vai Franco. Ciao Claudio, ci sentiamo, dai, a domani, se coincide. Così è, così. Purtroppo questa gente che guadagna così è gente che non...